L'alba nascente, Meccana numero 20, di 5 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Di: mi rifugio nel Signore dell'alba nascente. Min sharri ma khalaq. Contro il male che ha creato. O min sharri ghasiqin idha waqab. E contro il male dell'oscurità che si estende. O min sharri naffathati fil 'uqad. E contro il male delle soffianti sui nodi. O min sharri hasidin idha hasad. E contro il male dell'invidioso quando invidia.